Balkan Rock, buona domenica a tutti, benvenuti su Balkan Rock con ben due mesi, insomma, di pausa invernale, un bel letargo, no Dule? Sì, circa due mesi di letargo, insomma, ci concediamo queste lunghe pause di riflessione e quindi siamo tornati a Balkan Rock per parlare della cultura pop dei paesi jugoslavi, dei paesi della cosiddetta jugosfera. Oppure delle cosiddette Jugoslavie, mi viene in mente il termine di Eric Gobetti che dovevamo ospitare la settimana scorsa, poi abbiamo avuto qualche problema purtroppo tecnico, non siamo riusciti ad averlo con noi in studio, o meglio, lui con noi in studio c'era. Era la strumentazione a non assistirci. E quindi mi viene in mente il suo termine, appunto, quando parla di Jugoslavie al plurale, molto molto indicato. Ma bando alle ciance, oggi abbiamo in studio con noi Davide Agazzi, responsabile dell'ufficio stampa del Festival Slavica. Ciao Davide. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Figurati, grazie a te di essere venuto qua insieme a noi a condividere le nostre sfortune per quanto riguarda la strumentazione che oggi non ci sta assistendo al pari di domenica scorsa. E allora, quindi Davide Agazzi oggi ci parlerà proprio del Festival Slavica, un festival organizzato nella cintura torinese, anzi proprio nel centro di Torino, cintura, primissima cintura, ma appunto ricordando come se fosse passato miglior vita, ma no, per fortuna c'è, ricordando Eric Gobetti, mettiamo prima un pezzo appunto sulla... questo partigiano. La resistenza, sì, un pezzo intitolato Krai sutjeske hladne vode, cioè fa riferimento a una battaglia cruenta del 43 in cui c'erano le forze d'occupazione riunite al completo tra italiani, tedeschi e i fascisti, insomma, croati e serbi contro il quartier generale partigiano appunto in Bosnia, e l'obiettivo era quello di annientarlo e porre fine alla resistenza, e dopo appunto questa battaglia che ha costato migliaia e migliaia di morti, invece sono riusciti a non proprio a vincerla, però neanche a perderla. Tra l'altro c'è anche un bel film, no? Sì, un film dove addirittura Richard Burton interpreta maresciallo Tito, che fu appunto ferito durante questa come battaglia. Come si intitola già il film, non ricordo? Credo solo Sutjeska. Ah, è vero. Con il nome del fiume, ecco, dove ha visto come era appunto il scenario di questa battaglia. Ma era quello il film in cui hanno usato carri armati veri, buttato nel fiume carri armati veri, usato... Sì, ancora di più nella battaglia di Neretva, di spiegamento di forze, uso appunto degli armamenti veri e propri, era ancora più usato, diciamo. Tu, Davide, hai presente la battaglia di Neretva con Yul Brynner, con un sacco di attori? Confesso di avere questa mancanza, quindi devo recuperare assolutamente il contenuto. Sì, questo è tradotto anche in italiano. Cioè, ah, okay, anni fa andava, cioè la Rai ogni tanto magari lo faceva. Magari Rai 3 alle 2 di notte, qualche spettacolo. Sì, non di so, nicchia. Magari sì, o fuori orario, che ne so. Bellissimo. Me lo segno. Allora andiamo a sentirci proprio Krai sutjeske hladne vode. Vode, barjak časti i slobode. invece popoliani, provvisce se partisani, nel potece popoliani, provvisce se partisani. E questa era Krai Sutjes che Klad ne vode, cioè a Sutjes c'è l'acqua fredda, in effetti il fiume che passa proprio da lì, che è là, Dusko aiutami, che fiume passa di lì? Il fiume Sutjeska si chiama proprio così, come, ah, la, chiama... come la, l'area, come il complesso appunto montano che... Okay. Stanno nei dintorni, anche il fiume nel quale abbiamo avuto il piacere anche di pucciare i piedi durante un viaggio. Che scena terribile. Forse questo non tutti lo volevano sapere. Sì, in effetti l'acqua anche ad agosto era assai freddina. Dunque andiamo a parlare di Slavica, siccome abbiamo l'onore di avere Davide qui con noi, appunto ricordiamo responsabile dell'ufficio stampa e della comunicazione del Festival Slavica. Caro Davide, raccontaci un po' di questo festival che avremo il piacere di seguire. Sì, dunque, il festival diciamo che è nato un po' più per volontà dell'associazione Polski Kot di Torino, di cui fanno parte Alessandro e Loredana, che è un'associazione, un circolo polacco, quindi che da ormai 4 anni, questa settimana c'è il compleanno, c'è il 4º anno, diciamo da prospettive, organizza eventi sulla Polonia, ma su in generale la cultura dei paesi slavi, quindi tutto il blocco Est Europa. È nata un po' quest'idea, ovviamente come diciamo punto d'arrivo dell'associazione, di creare quindi un contenitore più ampio, racchiuso in una settimana, con una serie di eventi che spaziano un po' dalla cultura, la musica, appuntamenti culinari, ci sarà un po' di tutto in realtà, mostre, teatro, presentazioni di libri con ospiti italiani, torinesi, ma anche ovviamente internazionali, quindi penso possa essere un appuntamento sicuramente curioso per tutti gli appassionati di Est Europa, ecco. Certo, anche perché insomma Slavica, lo dice il nome stesso, sebbene il Polski Kot, Alessandro e Loredana si occupino in particolare di Polonia, ma diciamo che l'occasione probabilmente, dimmi se sbaglio, è dedicata a tutte le culture slave, perché se non sbaglio ci sono anche cose, interventi di persone che si occupano di Russia piuttosto che di Balcani occidentali, di ex Jugoslavia, eccetera, no? Sì, c'è un po' di tutto in realtà, un po' l'idea di creare un melting pot come evento che possa quindi riguardare, ci saranno presentazioni di libri dedicati alla Bosnia, come dibattiti sulle guerre russe nel Caucaso, appuntamenti gastronomici con una gastronomia russa, e poi ovviamente appunto ci saranno appuntamenti musicali, poi di musica ci sarà quella italiana di un cantautore torinese come Federico Sirianni, ma anche quella di un trio polacco che sarà poi l'apertura all'officina, che rappresenterà l'apertura all'officina Corsare, e anche comunque un gruppo fiorentino dei suoni un po' più gypsy folk, per una serata un po' più Balkan beat se vogliamo, quindi un po' più danzareccia, ecco. Benissimo, e questo a partire da quando? Quando diciamo, dovrebbe iniziare questo festival? Il festival ufficialmente inizierà il 15 marzo, durerà una settimana, chiuderemo il 21, quindi la prima serata sarà alle officine Corsare di Via Pallavicino, il 15 sera, e poi la serata conclusiva invece sarà il 21 marzo a El Barrio, che è un circolo in strada di Cuornier, comunque rimane a Torino, e con quindi un gruppo toscano fiorentino, la Barodrome Orchestra. Interessante. E quindi i luoghi dove si terrà il festival sono 3, mi pare, no? Sono anche 4 se vogliamo. Sì. Quindi Polski Kot, chiaramente, che è il promotore dell'iniziativa. Il Polski Kot, poi... sì, che sarà il centro, diciamo, durante tutta la settimana. La maggior parte degli eventi saranno al Polski Kot, che ricordiamo essere in via Massena 19, dietro Porta Nuova. E poi ci saranno quindi le officine Corsare, che sono un circolo arci, il Barrio, che è un circolo sempre in strada di Cuornier, e Sovietnico, che è questo paradiso diciamo di Russia in via Cibrario, gestito da Sasha e da sua moglie, che sono una splendida coppia che da anni lavora appunto nel campo della ristorazione, promuovendo diciamo specialità dall'altra parte del confine, ecco. Fantastico, tu ci sei stato? Sono stato in quella che era la loro, diciamo, la loro bottega prima. Non sono ancora stato a Sovietnico, di cui però ho detto un gran bene. Quindi in realtà ogni tanto ho comprato lì un po' di pannacita, di smetana, qualche salmone, qualche biscotto, qualche tè, un qualche po' di aringa cose affumicata. Ovviamente, sì, sì, sì. Benissimo, allora io proporrei di andare ad ascoltare un brano per poi entrare nel vivo del festival e andare a vedere proprio il programma, no? Giorno per giorno, quale saranno le attività. Andiamo a ascoltarci un pezzo davvero, direi il pezzo dell'anno. Sì, dai. Nonostante ci siamo entusiasmati, l'hai trovato tu casualmente su YouTube, questa ormai dimenticata cantante, non mi ricordo se croata o bosniaca, jugoslava. Jugoslava, sì, assolutamente. Nena Ivošević. Nena Ivošević con Comandant Sava. Questa è tutta per te, caro comandante partigiano. Poi spieghiamo la storia anche del comandante Sava dopo questo splendido brano. Va bene, questa è per il comandante partigiano Sava Kovacevic, comandante Sava. S kraja Bosne i mora, snaga zemlja sva, svud se slavom pročuo komandant Sava. Vodio je brigade preko polja gora, razgonio je bande mrskih zlokora. Bravissima Nena Ivošević con Comandant Sava, questo pezzo meraviglioso dedicato al comandante partigiano Sava Kovacevic. Che ci dici, Duško? Perché ti vedo che vuoi dire delle cose. Beh sì, dare qualche delucidazione. Chi era questo Sava Kovacevic? Era un comandante montenegrino nato in quel di Grahovo. Nato a quel di Grahovo, esatto, un paesino insomma nell'entroterra montenegrino molto piccolo, dove oggi c'è ancora un monumento intitolato anche tra gli altri a Sava Kovačević. È più grosso il monumento che il paese intero, perché diciamo che Grahovo, insomma, sarà una municipalità davvero 5.000 abitanti. Sì, ma cioè, voglio dire, Cambiano in confronto è Manhattan. Cioè. È da lì che viene Sava, appunto, che si distingueva per atti di eroismo proprio durante un tipo a quanto pare temerario. Si dice adesso che assaltava i carri armati tipo con le bombe a mano in mano, tenendole in mano e buttandole nelle aperture dei carri armati. Direi degno, la storia degna di un film di Tarantino. Si diceva prima con Davide, anche la musica sembra la colonna sonora di un qualche spaghetti western di fine anni 60. Sì, ma io infatti sostengo da anni ormai che Tarantino dovrebbe volgere un po' la sua attenzione sui Balcani in genere. Credo che avrebbe molti spunti, e storie come questa credo che lo testimonino, quindi insomma. Assolutamente, dopo Messico e il sud degli Stati Uniti, ecco, dovrebbe fare un salto oltre oceano e andare nei Balcani, sicuramente un contesto adatto per il suo genere, e soprattutto questa storia qua di Sava, di questo comandante temerario che si mangiava i tedeschi a colazione. Insomma, ecco, io volevo soltanto dire che Grahovo ha ben 120 abitanti. Beh, 120. Grugliasco quanti ne ha? Beh, Grugliasco, ma tantissimi. Adesso no, veramente, io... 120 abitanti. Ce ne avrà 30.000 Grugliasco. No, Collegno ne ha circa 30.000. Grugliasco ne avrà forse qualcuno in più. Stiamo parlando di metropoli qua. Quindi... Sì, assolutamente. Porca miseria, quindi si è svuotata completamente. Insomma, no, Grahovo è rimasto praticamente una panetteria, una drogheria e il a Saperlo facevo richiesta per un Erasmus quasi. Eh sì, conviene assolutamente. Dunque, bando alle ciance, grazie appunto a Nena Ivošević per averci regalato questa perla davvero che merita. Che manderemo a Tarantino, quindi. Che manderemo a Tarantino. Insieme all'appello di fare un film ambientato nei Balcani, ecco, possibilmente durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, allora addentriamoci proprio in quello che è il programma del Festival Slavica, perché siamo curiosi, vogliamo sapere giorno per giorno che cosa accade. Raccontaci un po'. Sì, dunque, il programma è abbastanza fitto di eventi, anche perché dura una settimana, quindi diciamo che la scelta è abbastanza ricca. Abbiamo detto che quindi... Ce n'è per tutti i gusti, insomma. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età, fondamentalmente anche per tutte le tasche, perché tendenzialmente abbiamo ottenuto dei prezzi sempre molto, diciamo, a portata di mano, quindi non dovrebbe esserci grossi problemi. E la prima serata sarà alle Officine Corsare, abbiamo detto, il 15 marzo, e ci sarà un trio jazz polacco capitanato da Jacek Kokan. Adesso qua manca Alessandro del Polski per correggermi sul polacco, io purtroppo sono un po' carente sulle pronunce, però ci provo. Jacek Kokan, che è un musicista polacco, compositore, batterista, che comunque ha, diciamo, trascorso gran parte della sua carriera negli Stati Uniti e in Canada, e poi è tornato in Europa, dove attualmente gira in tournée con diverse formazioni, e comunque quindi saranno un concerto prevalentemente jazz, ecco, fondamentalmente. Ma che sai presente che quale sottogenere, insomma, quello di... Allora, su jazz devo dire che è difficile, cioè non saprei andare troppo nello specifico, perché purtroppo credo che i conoscitori di jazz siano molto preparati, e quindi non vorrei entrare tecnicismi difficili. Ecco, anche perché abbiamo il padre di Dusko, che è un intenditore di jazz, ecco, è un nostro radioascoltatore, quindi tieniti sul vago. Preferisco evitare figuracce. Va bene, jazz. Niente, lo scoprirete da soli. Se non sbaglio, quella sera lì, tra l'altro, ci sarà anche una cena a base di specialità polacche. Sì, esattamente, quindi... sempre alle Officine, quindi serata totalmente a tema, insomma, in tema col Polski Kot, circolo polacco, cena totalmente polacca e musica arrivata dalla Polonia. E il giorno dopo, poi in realtà, che sarà lunedì, ci si sposta al Polski Kot in via Massena, e sarà ancora a Polonia, perché ci sarà un doppio appuntamento di una giornata dedicata a Witkiewicz, che era un drammaturgo polacco di fama comunque abbastanza internazionale, e quindi ci sarà prima un documentario e successivamente poi uno spettacolo teatrale. Quindi si comincia alle 19 con questo spettacolo chiamato Witkiewicz, con il documentario intitolato Witkiewicz e in Garden, è un dialogo filosofico di Elena De Varda, E poi dopo ci sarà quindi uno spettacolo teatrale che ripercorrerà di nuovo, sempre tratto da un romanzo che è Il pazzo e la monaca. E questo sono solo i primi due giorni. Poi martedì in realtà si rimane sempre al Polski Kot, al Circolo Polacco, e si verrà inaugurata una mostra fotografica abbastanza curiosa, dedicata un po' allo sport, quindi all'Europa calcistica dell'Est, ambientata in Trasnistria tra l'altro, che è una zona di terra molto poco conosciuta ai più, che però è un po' un posto, diciamo, abbastanza curioso, situato una striscia di terra situata tra la Romania, la Moldavia e l'Ucraina, che fondamentalmente è uno stato non riconosciuto, che è un avamposto sovietico ancora, se vogliamo. E tra l'altro, se vuoi possiamo fare una piccola digressione e ci racconti cosa ti è successo in Transnistria. Ma io fortunatamente in Transnistria proprio non ci sono passato, però appunto mi è successo che qualche anno fa, in uno dei miei primi viaggi verso l'est, ero in treno alla conquista dell'Ucraina, quindi verso Odessa, e una volta arrivato al confine con la Romania dovevo un po' decidere come attraversare il confine tra la Romania e l'Ucraina, perché non esistono né treni né pullman che ti portano dall'altra parte del confine. E allora o si passa a nord verso Iași, ma era troppo lunga, noi eravamo a sud, eravamo verso Tulcea, quindi Galați, proprio sud della Romania, e o passi la Transnistria oppure ti arrangi. Non volevamo passare la Transnistria perché dovevi compilare un po' di visti in cirillico che noi non conoscevamo, e poi sappiamo essere un posto un po', diciamo, borderline. E quindi, insomma, abbiamo cercato di passare il confine in maniera un po' alternative, e siamo riusciti a prendere un taxi che ci accompagnò, ma fu un'esperienza molto tribolata in realtà, durata più di un giorno la traversata, con più di uno stop al confine, prima in Moldavia, a Giurgiuresti con mitra spianata in faccia, poi in Ucraina. Insomma, è stata un'esperienza abbastanza significativa. E poi dopo sei stato accusato? E poi dopo è successo, sì, nel mio girovagare nell'est, quando una volta... Ah, ma non è successo nello stesso viaggio? Sì, sì, è sempre lo stesso viaggio. Ah, okay. La prosecuzione è arrivata una volta a Odessa. Diciamo che una volta arrivati lì, una sera ero con due miei amici e volevamo andare in una serata in discoteca. Non trovando un guardaroba, abbiamo deciso di mettere il nostro zaino, di posare il mio zaino con dentro lo spazzolino e ciabatte dietro un albero. Se non che poi due poliziotti ucraini ci hanno... Se andate a Odessa, mai posare uno zaino con spazzolino e ciabatte in un angolo, ragazzi. Siete stati avvisati. Soprattutto cambiarvi insieme alla persona dello stesso sesso. Questo è ritenuto un affronto incredibile, tant'è che infatti due poliziotti in divisa ci hanno puntato le torce addosso, ci hanno urlato qualcosa in russo, in ucraino, senza capirne cosa volessero dire, e ci hanno chiesto di perquisire la valigia, e ci hanno detto che, insomma, non potevamo compiere atti osceni in luogo pubblico, perché insomma due uomini in un parco di notte possono fare solo una cosa. E quindi poi trovarono un documento comprato in Romania del Partito Comunista Rumeno del 70, e quindi insomma ci accusarono fondamentalmente di omosessualità e comunismo, e ci portarono in questura per tutta una notte. Quindi mai comprare souvenir agli amici che vi chiedono del Partito Comunista Rumeno. Esatto. E mai girare con zaini e spazzolini, ciabatte nello zaino, perché sennò verrete accusati di omosessualità e comunismo. Bene, allora dopo questa digressione, siccome abbiamo ancora qualche pezzo carino da ascoltare, andiamo ad ascoltarci un pezzo e poi ritorniamo al programma di Slavica, che ricordiamo si terrà dal 15 al 21 marzo. Il prossimo pezzo è dei Rock Partisani e si intitola Anka Partisanka. questa era anche Partisanca dei Rock Partisani, un gruppo rock forti rock partisani, sì sì, sono bravi, manieristici, però una bella formula. Sì, rock, gruppo jugonostalgico rock sloveno. Sì, sloveno. E tra l'altro è interessante questa scena musicale slovena, non l'abbiamo ancora trattata con attenzione, ma in effetti ci sono davvero dei gruppi particolari che meritano appunto di essere scoperti. Allora, ritorniamo al programma di Slavica, siamo rimasti a martedì 17, se non sbaglio. Chiudiamo il martedì, abbiamo detto della mostra fotografica dedicata comunque all'Europa calcistica dell'Est, e poi si proseguirà in realtà con degli ospiti che ritengo molto interessanti, che sono i ragazzi di Sjournal, che è un portale online che tratta sempre in maniera accurata tematiche sull'Europa dell'Est, che spesso non si rincontrano sui giornali, sui quotidiani nazionali. E loro ci parleranno appunto in realtà sulle guerre russe nel Caucaso, prima del Maidan, questo è il nome del dibattito, prima del Maidan, le guerre russe nel Caucaso. E quindi sarà comunque, credo, un incontro interessante. Ci sarà anche un professore di storia dell'Europa orientale dell'Università di Torino, Marco Buttino, ricordiamo, esatto, perché insomma è un'istituzione torinese, Marco Buttino, esatto. E poi successivamente dalle 9:30 ci sarà un altro appuntamento di nuovo calcistico, quindi se vogliamo diciamo un po' alleggeriamo un po' l'atmosfera, con da una parte il cantautore Federico Sirianni, dall'altra parte Giorgio Ulmoti, che è uno storico torinese, che quindi diciamo racconteranno quattro episodi di storia abbastanza inediti, sconosciuti, di storie calcistiche dell'Est Europa. E quindi si chiamano, che il dibattito, diciamo l'appuntamento più che un dibattito, sarà diciamo un momento disteso di racconti cantati, e si chiama Torpedo Rapide Dinamo, storie di calcio dall'Europa dell'Est. Torpedo Rapide sono quattro squadre? Sì, beh, tre, sì. Tre squadre. Torpedo, sì. Rapide Dinamo. No, ok, sì. Ma Torpedo tipo di che paese è? Beh, in realtà sono... furono squadre che diciamo venivano riproposte in diversi paesi dell'Est Europa con lo stesso nome. Ah, infatti, per la Dinamo lo sapevo. Però che... appunto erano quelle squadre date da, diciamo, dai lavori dell'epoca. Quindi la Dinamo inizialmente era quella di elettricisti, la Torpedo adesso magari c'è quella degli idraulici, eccetera. Quindi certo, erano squadre diciamo settoriali. Sì. Presente, sì, un po' come le squadre jugoslave, la Željezničar, quella che era dei metalmeccanici, esatto, piuttosto che Rudar, quella dei minatori. Esatto, l'impostazione era sempre quella. Ok. Diciamo che paese dell'est che vai, squadra di calcio che trovi, insomma. Soprattutto sempre con una certa passione calcistica, quindi per poco non ero andato a vedermi il derby di Belgrado tra Partizan e Stella Rossa, sul quale ho letto articoli, visto video abbastanza, diciamo così, Impegnativa come incontro sportivo. Diciamo che è un po' più, diciamo, avvincente di un Chievo-Parma alle 15 di domenica, ecco. Sì. Un po' più adrenalinico. Ecco, se vogliamo, sì. Il Maracanã di Belgrado è sempre un posto abbastanza... che regala un sacco di emozioni forti. Sì, senz'altro. Bene, allora passiamo a mercoledì 18. Cosa mercoledì accade? Mercoledì 18 ci lanciamo nella cultura vera e propria, quindi parliamo di libri e ne presentiamo due per occasione. E quindi il primo, che è dello scrittore Francesco Cataluccio, che si chiama quindi Vado a vedere se di là è meglio, e quindi possiamo immaginare, diciamo, quali siano sempre le tematiche, sempre un occhio, diciamo, dall'altra parte, dico, che succede dall'altra parte dell'Europa, quindi a Oriente. E il secondo libro invece di Enrico Pastore, che presenta uno spettacolo invece tratto sempre da un libro, che è Quel mattino di Sarajevo, che è incentrato sullo scoppio della prima guerra mondiale. Quindi una serata sempre al Polski Kot di via Massena, si rimane sempre, diciamo, in casa. Il giorno dopo invece ritorna un appuntamento musicale sempre al Polski, quindi giovedì 19 dalle 9:30 ci sarà la Taverna Balcanica, che è uno spettacolo inedito di cui fanno parte Federico Sirianni con la chitarra e voce, Matteo Castellan con la fisarmonica e una voce d'opera di un nome di una cantante d'opera ucraina che si chiama Zoludova, abbastanza giovane, che quindi insomma si lanceranno in performance balcaniche con aperitivo, anche con cevapi e rakije e diciamo bevande e specialità dell'est. Stai dicendo le parole chiave, quelle che sicuramente stanno invogliando ogni radioascoltatore, esatto, a venire. venire. L'ultimo appuntamento direi che esatto, ha colto un po', perché dici Racchiace Vapi e va bene. Ma la bue, taverna poi balcanica, e appunto si suona, si mangia, diciamo che è più un ambiente da cafana. Esatto, la cafana, appunto la taverna balcanica. Sì, dunque vorrei ricordare anche che nella stessa serata verrà consegnato il premio Polski Kot per la miglior traduzione da una lingua slava verso l'italiano. Sono usciti i nomi dei tre finalisti. I tre finalisti sono Claudia Zonghetti, che ha tradotto L'Olimpo di Putin, di, scusatemi la mia pronuncia terribile in russo, di Valery Pagnuskin, che poi non so neanche, probabilmente è un autore russo, ma prendetela con le pinze, edito da casa editrice E.O. La seconda finalista è Denise Silvestri. Sono tre donne le finaliste. Quote rosa e Polski, quindi. Assolutamente. Che ha tradotto di Vladimir Sorokin La giornata di Uno Pricnic di Atmosfere Libri. E poi la terza e la quarta finalista sono Olia Arsic e Silvia Minetti, che hanno tradotto Cultura Karaoke di Dubravka Ugrešić per Nottetempo. E poi il giorno dopo quindi si continua, e il venerdì sarà sempre al Polski e si celebra quella che è la giornata mondiale della poesia, e quindi ci sarà un incontro con un'autrice polacca. Anche qui io chiedo scusa ai conoscitori della lingua polacca, perché il mio accento è un po' pessimo. Comunque si chiama Cristina Dabrowska, spero sia giusto, che ha vinto anche un premio nel 2013 per la poesia in Polonia, e quindi ci sarà questo incontro con questa autrice, quindi si potranno sentire le sue poesie e si potranno quindi anche scambiare due parole su quello che è lo scenario polacco a livello poetico. E successivamente poi nella stessa sera ci si sposterà, quindi in realtà dal Polski Kot andremo a trovare uno dei partner, diciamo, della manifestazione, che è Sovietniko, questa gastronomia russa in via Cibrario, dove ci sarà quindi una cena ovviamente con specialità russe, quindi zuppe, aringhe, affumicate, salmoni, pane nero, smetana e quant'altro. Chi volesse poi partecipare potrà recarsi direttamente al Sovietniko, che ricordiamo essere in via Cibrario, che è di Sasha e sua moglie, che sono due persone squisite che da anni gestiscono già un altro negozio sempre in via Cibrario, una bottega di, diciamo, tesori d'Oriente. Confermo, perché insomma sono stata loro cliente varie volte e ho avuto davvero l'opportunità di mangiare delle squisitezze. E quindi siamo giunti praticamente all'ultima serata, sabato 21, ma magari ne parliamo dopo il prossimo pezzo della serata conclusiva. Andiamo a mettere il prossimo brano, che è di musica klezmer yiddish, e si intitola Budapest. Jungen freilich, ich will sich geht. Es bringt sich mir noch Liebe, es bringt sich mir noch Glück. Ich will geinen alle Gassen in mir schreien Gewalt. Am Mädele geht er mir bald. Weil ich bin a Buche Jungen frisch, ich geh sich aus, man mich verrakisch. Treff ihr mir a Lotschip und Jenke, sie red Polisch und ich muss denken, ja, tschen koch am Atisch, Bisch. Spiel Zigeine auf dein Fiedel, spiel mir ab ein liebes Liedel, weil ich hab gelost mein Herz in Budapest, in der Nacht, wenn die Lewunde hat gescheint. Ich hab gewollt mit ihr bauen am Nest, und sie hat von mir sich ausgelacht. Ich hab gemeint, sie liebt mich einen, sie liebt nur mich, in mehr nicht keinen. Ich hab gemeint, ich kein Vertrauen, falsch ist sie wie alle Frauen, bei dir, oh Gott, ich hab sie gelost, Stein. Spiel Zigeine auf dein Fiedel, spiel mir ab ein liebes Liedl, weil ich hab gelost mein Herz in Budapest, in die Nacht, wenn die Lewune hat gescheint. Ich hab gewollt mit ihr bauen am Nest, in sie hat von mir sich ausgelacht. ich hab gemeint, sie liebt mich einem. Sie liebt nur mich, in der Meer nicht keinem. Ich hab gemeint, ich kenn Vertrauen. Falsch ist sie wie alle Frauen. Bei dem Rogatke hab sie gelostgestein. E questa era appunto Budapest, un pezzo di musica klezmer yiddish che abbiamo ascoltato con piacere, proprio perché queste saranno in parte le sonorità che andrete a ascoltare durante il Festival Slavica. Allora andiamo a raccontare quello che succederà nella diciamo nella serata finale di Slavica, il sabato 21. Sì, arriviamo finalmente alla fine del festival, che come si è potuto vedere è abbastanza impegnativo, una settimana intera di appuntamenti. E si chiude appunto con un concerto, quindi torniamo come si era iniziati con la musica e ospiteremo quindi un gruppo toscano di Firenze che sono i Barodrome Orchestra, che è un gruppo diciamo che si rifà a quelle venature un po' gypsy folk, gypsy funk, gypsy punk in stile Gogol Bordego. Ovviamente non c'è Eugene in questo caso, però sono un gruppo che diciamo si autodefinisce power gypsy dance, quindi se non altro tanto sudore, tanta vodka, si balla in compagnia, tendenzialmente sono diciamo è un mix che funziona. E poco prima invece al Polski, perché il concerto si tiene al Barrio in strada provinciale di Cornier 81, prima invece sempre sabato 21 al Polski ci sarà la presentazione di un altro libro, che è I Bastardi di Sarajevo di Luca Leone, un romanzo ambientato in Bosnia, di questo giornalista e scrittore infatti. Ma quindi chi ci ha ascoltati avrà bisogno magari di un promemoria per appunto andare a rivedere questo programma denso di iniziative, dove può andare, che sito può visitare? Dunque, le alternative sono molteplici, diciamo che come sempre i social network offrono diciamo grandi garanzie per rimanere aggiornati, quindi c'è la pagina del Polski Kot, c'è la pagina di Slavica del festival, che è nata da poco quindi ha bisogno un po' di sostegno, di un sostegno social da parte di tutti. E poi c'è il sito blog del Polski Kot, polskikot.wordpress.com, dove c'è tutto il programma che ormai è definitivo e chiuso, e quindi insomma manca poco più di un mese e un giorno e si comincia. Tra l'altro noi comunque in ogni caso ci impegneremo a mettere nella nostra pagina Facebook e anche sul sito di My Radio i contatti del Festival Slavica, e vi ricorderemo insomma qualche giorno prima con qualche insomma anche promemoria musicale quelli che saranno gli appuntamenti di Slavica. Poi in realtà spareremo con una mitragliata di colpi la mattina del festival da Piazza Castello, così per far capire che stanno arrivando un po' come a Guccia. Molto bene, molto bene. Allora andiamo a ascoltarci un altro brano che appunto è un altro tipo di sonorità che potrete ascoltare a questo festival, sempre molto folkeggianti, diciamo. Loro sono la Boban Marković Orchestra con Igra Cigana. We'll be right back. Boban Markovic Orchestra, ovvero il ballo degli zigani, appunto, della Boban Markovic Orchestra, famosissima orchestra che più volte si è esibita in quelle di Guccia. Stavamo parlando prima con Davide, appunto, di Guccia, perché nessuno di noi è riuscito mai ad andare al Festival di Guccia, perché io sono partita in autostop ma non ci sono mai arrivata. Davide però è andata al Festival di Guccia che si tiene a Trieste, quindi insomma la versione pacco del... Beh, adesso detta così suona un po' male, devo dire, però comunque diciamo che la versione per gli italiani che non arrivano fino in Serbia si chiama Guccia Nakra, succede da qualche anno, c'è un'edizione sia estiva che invernale, comunque diciamo funziona più come un festival tradizionale rispetto a Guccia, che invece è un casino unico in paese, con fanfare che sono per le strade, nelle tende, gente che dorme dappertutto, eccetera. Il Guccia Nakra è un festival un po' più tradizionale, si svolge al confine con la Slovenia, o Picina, però comunque è stata una bella esperienza, una bella avventura anche quella comunque. Molto bene, allora io ci tengo sempre tutti gli anni a ricordare una cosa in occasione del San Valentino, siccome proprio in questi giorni si festeggia San Valentino, che il 14 febbraio per il calendario cattolico è anche il giorno dei Santi Cirillo e Metodio. Ma perché sono importanti i Santi Cirillo e Metodio? Aperta la parentesi, cos'è, una domanda retorica o dobbiamo rispondere? Dovete rispondere, vediamo se qualcuno di voi due lo sa. Io lascio rispondere qua, lui mi sa, è esperto di me. Beh, esperto, cioè posso insomma rispondere in maniera un po' approssimativa. Erano, da quello che ricordo, gli ideatori dell'alfabeto glagolitico. Ma che bravo, ma sembra che quasi dovevano... che tu sia fidanzato con una linguista, così. Come fai a sapere? Così. Quindi erano gli ideatori di questo alfabeto che doveva mettere in comunicazione tutte le tribù slave sotto la giurisdizione del Bisanzio e facilitare la comunicazione. Assolutamente, non solo, tradussero insomma proprio il Vangelo in lingua slava, per cui ecco, per quella, quel cosa fondamentale. Quella è la cosa fondamentale. Infatti Santi Cirillo e Metodio sono considerati patroni di tutti i popoli slavi nell'ambito appunto della Chiesa Cattolica. Sono molto venerati in Slovenia, in Slovacchia, in Croazia, in Repubblica Ceca e anche in Macedonia. Infatti nel 1980 Papa Giovanni Paolo II, con la lettera apostolica del 31 dicembre dell'80, li elevò a compatroni dell'Europa insieme a San Benedetto da Norcia, niente poco di meno che. Infatti nell'enciclica Giovanni Paolo II afferma che Cirillo e Metodio sono come gli anelli di congiunzione o come un ponte spirituale tra la tradizione occidentale e quella orientale. Ci piace, forte Cirillo e Metodio. Metodio o Metodie? Metodio, giusto, mi stanno correggendo. Ci piacciono questi santi linguisti, credo che loro non sono stati dei martiri, cioè non credo che qualcuno li abbia uccisi, spero per loro che abbiano vissuto. Tu sai qualcosa? Sarà una storia lieto loro... fine oppure? Esatto, una storia lieto fine, quella di Cirillo e Metodio. Non essendo americani, non so se... accoppati. Non credo proprio. Non gradendo, che, diciamo, che di sia farsi imporre. Penso sia una storia di lieto fine. Siano, insomma. Penso anch'io, esatto, che il merito che so sia che quello Cirillo, intellettuale so più che quello Cirillo, spirituale. Il nome da cui appunto deriva l'alfabeto cirillico, che deriva dall'alfabeto glagolitico, è morto il 14 febbraio. Questa è l'unica informazione che ho rispetto alla morte. Non credo che siano morti di morte violenta, ecco. Bene, andiamo a verificare anche questo. Ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione. Vi ricordiamo ancora di andarvi a informare sul Festival Slavica, che appunto parte il 15 marzo. 15-21 marzo, una settimana. Ben una settimana di appuntamenti che abbiamo illustrato in maniera abbastanza approfondita quest'oggi. Esattamente, andiamo adesso ad ascoltarci Balkan Beatbox con Bulgarian Chicks. Vámonos. ci avviciniamo appunto al termine della trasmissione odierna di Balkan Rock, salutiamo tantissimo Davide Gazzi, che è colui che oggi ci ha salvato, diciamo, la trasmissione. Beh, grazie a voi per avermi ospitato. Beh, perché tutto, ci ha comunque aggiustato tutto il microfono, perché io qua, io e Dusko siamo gli intellettuali della situazione. No, ma infatti i giornalisti, come si sa, devono un po' invece adeguarsi a nuovi mestieri, quindi... Infatti. Esatto, soprattutto i giornalisti precari. Quindi vabbè, meritava, si insomma, dice freelance comunque, va di più di moda. Sì, ok, freelance, va bene, sia così. Sì, anche tu, insomma, tu. Vabbè, perché, cioè, facciamo finta di niente. Comunque direi che il festival meritava una trasmissione intera, insomma, una settimana di appuntamenti, di cose da dire ce n'erano. Assolutamente, poi insomma saremmo lieti di seguire il festival proprio nelle giornate del festival, di avervi di nuovo ospiti a Balkan Rock per raccontarci com'è andato il festival. Volentierissimo. E chissà, magari insomma ospitare anche gli ospiti del vostro festival, insomma, siccome avete un sacco di ospiti interessanti, perché no, vedere chi vincerà il festival, il premio di traduzione, come andrà la serata di presentazione del libro di Luca Leone, insomma noi siamo molto molto curiosi, quindi fateci sapere vostre notizie. Intanto vi ricordo che potete andare per avere informazioni sulla pagina Facebook del Polski Kot, oppure sulla pagina Facebook dello stesso festival Slavica, oppure ancora visitare la nostra pagina Facebook Balkan Rock at My Radio e trovare sicuramente tutte le informazioni relative al festival. Allora noi vi lasciamo sempre con un pezzo di Balkan Box Ermetico e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, domenica prossima. Arrivederci a tutti. Ciao, a tutti. Davide, Dovigenia Svima. you better listen. The BBB train riding on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some of pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we coming straight to your ear, no complications. As yalla yalla, come on, give me some of Balkan Rock.